jump the bridge, not just to start stage, to say goodbye at your desperate age. E il suo profumo di brava denso, il suo diario in quelle pagine, sapore di inchiostro, di rimorso addosso, tutti quegli amici che ora sola si portava addosso come uno scheletro, dentro la sua lacrima il siero di un veleno, un mostro di vetro, quello specchio, diceva, in queste immagini non mi riconosco, e questo dolce vivere ora sembrava vecchio, rughe di giovinezza e quella vuota stanza, no io non ti conosco, mamma e papà sembravano non capirla, quel giorno la sua bocca no non più non parla, frase indicibile della sua sogna, che ora è un incubo carogna, dice al destino, troppo furbo per lei, che vede solo guai, mai dicevano di lei, un mai di un nuovo amore, ora l'odio e il dolore, quel ponte così freddo di sangue e odore, e mai più sembra cadere il suo corpo come un petalo arso, al vento, memoria perso, in quelle sere nere, quel ponte, ora urla una lacrima in più, una rima in più, portandosi via un altro anonimo nome. In the night of cry, don't say goodbye, even if we don't understand your day, don't jump the bridge, don't choose a side of stage, to say goodbye at your desperate age. In the night of cry, don't say goodbye, even if we don't understand your day, il destino la guardava fissa, gli occhi di una qualunque ragazza, dentro quel take away l'ultima pizza, aveva tra le labbra l'ultima sizza, camminando verso il baratro non sembrava poi così pazza, era come se la vita l'avesse saziata a metà, o per nulla, il ponte in vista, girato l'angolo della piazza, e ancora un'altra pasticca di felicità, per prendere coraggio, per scappare da quella città, il ponte ormai là, laddove anche oltre, la pillola più non dà gioia, ora, piede dopo piede sul baratro, rivede tra le immagini di lacrime a sapore sordo, poche immagini felici, è il suo mondo, sembra impazzita, te ne dici. Don't jump the bridge.